Storie italiane. La piccola gallina rossa. C'era una volta in una vecchia fattoria un gruppo di animali che non aveva nulla da mangiare. Erano molto affamati, così decisero di cucinare. La piccola gallina rossa trovò un seme di grano, si precipitò dai suoi cari amici e chiese aiuto per piantare il piccolo seme. Chi mi aiuterà a piantarlo? Mucca? Vuoi aiutarmi a piantare questo seme? No! Io no! Oggi fa troppo caldo! Maiale, non è che mi aiuteresti a piantare questo seme? No! Io no! Oggi fa troppo caldo! Cane, mi aiuteresti a piantare questo seme? No! Io no! Oggi fa troppo caldo! Va bene, allora è deciso, farò tutto da sola! Quindi la gallinella rossa decise di piantare il seme da sola. Alcuni giorni dopo il sole sparì ed iniziarono le prime piogge. La piccola gallina rossa decise di andare a controllare il giardino. Chi mi aiuterà a raccogliere questi semi? Mucca, vuoi aiutarmi con i semi del giardino? No, io no! Oggi il tempo è molto bello per fare qualsiasi lavoro! Maiale, vorresti aiutarmi con i semi del giardino? No! Io no! Oggi il tempo è troppo bello per fare qualche lavoro! Cane, potresti aiutarmi con i semi del giardino? No! Io no! Oggi il tempo è troppo bello per fare un lavoro! Va bene, allora lo farò io. Così la piccola gallina rossa coltivava il terreno del giardino tutto da sola. Con il passare delle settimane, il sole maturò il grano fino a renderlo pronto per la mietitura. Il grano era diventato alto e forte. Così la piccola gallina rossa decise di chiedere ai suoi amici di aiutarla a trebbiare il grano. Mucca, vuoi aiutarmi a trebbiare il grano? No, io no! Oggi voglio riposare nella mia stalla! Maiale, mi aiuteresti a trebbiare il grano? No, io no! Oggi voglio riposare nel mio fango! Cane, vorresti aiutarmi a trebbiare il grano? No, io no! Oggi voglio solamente riposare nella mia amata cuccia. Va bene, allora dovrò fare tutto da sola. Nessuno aiutò la gallinella rossa, quindi ancora una volta dovette fare tutto il lavoro da sola. Iniziò così a trebbiare il grano. Dopo aver finito, chiese ai suoi amici di aiutarla a macinare il grano per fare della farina. Allora, chi di voi mi aiuterà a macinare il grano? Mucca, vuoi aiutarmi a macinare il grano per fare della farina? No, io no! È arrivata l'ora della mia mungitura! Maiale, vorresti aiutarmi tu a macinare il grano per la farina? No, io no! È arrivata l'ora della mia amata cena! Cane, mi aiuteresti tu a macinare il grano per la farina? No! Io no! È arrivata l'ora della mia amata cena! E va bene, allora lo farò da sola. Quindi la gallinella rossa iniziò a macinare il grano e trasformarlo in farina. La gallina rossa decise di cuocere la farina e farne un buon pane. decise di dare ai suoi amici un'altra possibilità per aiutarla. Chi mi aiuterà a cuocere questa farina in pane? Mucca, puoi aiutarmi tu a cuocere questa farina in pane? No, io no! Non sono capace di cucinare il pane! Maiale, vorresti aiutarmi tu a cuocere questa farina in pane? No, io no! Non so come si cucina il pane! Cane, puoi aiutarmi a cuocere questa farina in pane? No, io no! Non so come si cucina il pane! E va bene, allora lo farò da sola! La piccola gallina cucinò del buon pane, tutto da sola. Quando fu pronto, lo lasciò raffreddare per un po'. Prima di iniziare a tagliare quel gustoso pane e mangiarlo, si guardò intorno e non vide nessuno. Mi chiedo chi mi aiuterà a mangiare questo pane. Lo farò io! Lo farò io! Lo farò io! Eh no, voi non lo toccate! Ho fatto tutto il lavoro da sola, questo è il frutto delle mie fatiche. Questo pane è mio,